Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Virtuale ma reale, buonasera da Maurizio Melis. È in arrivo, non a caso direi, da Torino un nuovo simulatore di automobili per testare le quattro ruote del futuro. Non parliamo, attenzione, di uno di quei simulatori che imitano il comportamento di veicolo su strada come si fa in tanti videogame, ma di qualcosa di decisamente molto più sofisticato. Ci facciamo spiegare tutto da Massimo Violante, che è responsabile dello sviluppo di questo progetto, è il professore al Politecnico di Torino, al Darwin, il Dipartimento di Automatica e Informatica. Buonasera Violante. Buonasera. Dunque Violante, dicevo di questi videogame, ce ne sono anche di molto sofisticati che simulano il comportamento di un'auto su strada. Che cosa c'è di diverso rispetto a queste cose che siamo già abituati a vedere? Beh, allora, nel caso del simulatore che stiamo sviluppando ci interessa andare a modellare con un elevato grado di accuratezza tutta la dinamica di un veicolo e tutte le reazioni che il veicolo produce quando viene guidato, che sia guidato da una persona o da un algoritmo di guida autonoma. Da un'intelligenza artificiale come questa delle self-driving car. Cioè voi simulate a livello fisico tutto quello che succede ad ogni parte dell'automobile, corretto? Esatto. Prendiamo per esempio il caso dell'interfaccia tra pneumatico e strada. Quello che ci interessa andare a modellare è tutto il meccanismo fisico-meccanico coinvolto in questo elemento. Pensiamo per esempio a come può cambiare il comportamento di una vettura quando le gomme sono più gonfie, meno gonfie, quando il battistrada è più consumato, meno consumato, quando si sta viaggiando su asfalto piuttosto che cemento, su una superficie bagnata, su una superficie asciutta. Questo è un grado di accuratezza che difficilmente si ritrova nei simulatori utilizzati per giocare, e immaginate che questo tipo di accuratezza deve essere riprodotta su ogni elemento della vettura. Ecco, per esempio nei videogiochi diciamo non si va a simulare cosa succede veramente dentro a un motore, i gas, la miscela che esplode, il pistone che si espande. Voi invece simulerete tutti questi aspetti singolarmente e lo fate in tempo reale, giusto? Sì, esatto. Il nostro interesse è riuscire ad andare a simulare tutte le reazioni che avrebbe la vettura guidata da un guidatore umano o virtuale nel momento in cui viene effettuata la manovra. Quindi non è pensabile di impostare dei parametri, lanciare la simulazione, attendere delle ore e vedere il risultato. Certo. A noi interessa interagire in tempo reale con la vettura. Ecco, vediamo qualche esempio appunto allora di applicazione. Come verrà utilizzato questo che in realtà è un software prima di tutto? Beh, questo è un insieme di software e hardware che ci permetterà da un lato di valutare come differenti calibrazioni di una vettura possono essere apprezzate da un guidatore umano, quindi andare a anticipare tutte quelle fasi di sperimentazione che si farebbero normalmente in pista con un driver, in questo caso si potrebbero fare tranquillamente nel proprio laboratorio. Quindi con enormi risparmi da un punto di vista economico. Sia risparmi in termini economici che un enorme incremento dal punto di vista della sicurezza, perché certo, se andiamo a tarare la vettura in modo tale da avere un comportamento critico attraverso certo, la simulazione ce ne rendiamo conto, andiamo certo, per strada, andiamo a sbattere senza che nessuno rimanga ferito. Certo. Beh, un impiego assolutamente importante è quello della validazione degli algoritmi di guida autonoma. Prima di poter mandare su strada un algoritmo che sia in grado di controllare una vettura in presenza di traffico, in tutte le circostanze possibili e immaginabili, o quasi, insomma, questo esatto, sarebbe l'obiettivo. È assolutamente importante riuscire a simulare centinaia di migliaia di chilometri in condizioni ambientali le più disparate possibili, in modo tale da avere la confidenza che l'algoritmo si comporti sempre nella maniera attesa. Ecco, insomma, provare a prevederle tutte, poi non ci si riuscirà, ma bisogna andare il più vicino possibile. E naturalmente voi potete anche simulare, non so, dei motori completamente nuovi, delle modifiche innovative, no, alla geometria dei motori, che sarebbe costosissimo invece sperimentare. Sì, diciamo che il punto di partenza di questa attività di simulazione sarà proprio il motore, okay, che ci permetterà di, come diceva giustamente lei, simulare delle geometrie di motore, degli algoritmi di controllo di motore differenti, senza dover necessariamente andare a fondere un nuovo motore, certo, o andare a provare un algoritmo su un motore già esistente, rischiando di farlo esplodere perché, certo, perché non è ancora perfettamente tarato. Ancora una volta, diciamo che la simulazione consente poi di andare sul campo con qualcosa di molto più vicino al definitivo. Va bene, grazie Violante, fateci sapere come va a finire. Senz'altro, grazie a voi.